in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, buon Santo Stefano, o come si dice in inglese, Boxing Day. E ci ritroviamo per la nostra rassegna stampa internazionale. In molti paesi, tra l'altro Regno Unito compreso, perché è lì che appunto il 26 di dicembre viene chiamato Boxing Day, non è esattamente un giorno festivo come da noi, e anzi è l'inizio, per darvi un'idea, dei grandi saldi post natalizi. Iniziamo però questa rassegna stampa con un paese lontano, ma che sta vivendo, ne abbiamo parlato anche effetto mondo, l'ennesima crisi di governo, ed è Israele, che andrà probabilmente a elezioni anticipate, interrompendo per la quarta volta una legislatura che quindi non riesce a essere vissuta nella sua maniera naturale. Ma soprattutto c'è anche un problema di lockdown, perché Israele era stato tra i primi paesi a lanciare un primo lockdown, poi ne era arrivato un secondo e adesso potrebbe essercene un terzo, perché lo ha detto il premier Netanyahu e l'ha detto anche il ministro della sanità Yuli Edelstein, si è proprio entrati nella terza ondata. È salito il tasso di contagio, è salito il numero di morti per l'ennesima volta, e quindi sì, appunto, potrebbe esserci questo doppio fronte sul quale Israele sarà obbligata a combattere, cioè sia il fronte della pandemia sia l'incertezza politica. Sul tema delle chiusure, e soprattutto delle chiusure dei confini, El País è stato il primo quotidiano a dare grande spazio a una richiesta che veniva dal governo centrale di Madrid, e che poi tutti i governi hanno un po' espresso in ordine sparso, che è quella di avere una risposta coordinata dell'Unione Europea sullo stop dei voli con il Regno Unito. Il tema, lo sappiamo bene, questo di questa variante del virus, che viene già battezzata variante inglese, che nonostante tutto dovrebbe essere comunque una variante sulla quale il vaccino, i due vaccini a disposizione finora, cioè quello di Pfizer-BioNTech e quello di Moderna, sono efficaci, però è comunque sarebbe, e questo è il primo dato importante, naturalmente ne abbiamo parlato tantissimo, ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo, e anche dando conto del fatto che sia Pfizer, sia Moderna, sia AstraZeneca, sia tutte le altre aziende che stanno per mettere sul mercato i vaccini, hanno già iniziato, e pare con successo, delle verifiche per capire l'efficacia del vaccino anche su queste varianti. Anche di questo naturalmente si è trovato traccia su tutti i giornali del mondo. Il tema però è che sarebbe più contagioso. E spostiamoci a questo punto negli Stati Uniti, perché se da una parte Joe Biden si è fatto vaccinare in pubblico, lo stesso vale per la moglie e molti altri personaggi, tra cui Anthony Fauci, e ancora esponente, naturalmente ex membro, o meglio ancora membro della task force contro il virus e contro l'epidemia da Covid negli Stati Uniti, istituita da Donald Trump, quasi certamente sarà consulente anche per un equivalente task force del presidente eletto Joe Biden. Però al di là di queste vaccinazioni in pubblico, poi tutti hanno senza mezzi termini dato credito al presidente uscente Donald Trump per questo sforzo voluto, guidato dalla sua amministrazione, per creare delle partnership tra pubblico e privato, con naturalmente grandi fondi messi a disposizione dall'amministrazione Trump per arrivare così in fretta alla messa a punto dei vaccini e soprattutto alla loro distribuzione. Eppure Donald Trump in questi giorni sembra non occuparsene, tanto che il Washington Post addirittura ha ipotizzato, e qui si tratta purtroppo di tutti quei retroscena ai quali siamo abituati, molto abituati anche in Italia, quindi sono retroscena per ora, non dichiarazioni ufficiali, di quello che sta succedendo all'interno della Casa Bianca. E poi c'è questo grande tema di cui hanno parlato tutti i giornali, del pacchetto di stimoli, un pacchetto di stimoli sul quale si lavora sostanzialmente da maggio, perché quello precedente risale ad aprile ed era di 2,3 miliardi, questo pacchetto di stimoli, frutto di un accordo tra repubblicani e democratici, perché sapete che i democratici controllano la Camera bassa del Senato, del Parlamento americano, del Congresso, mentre i repubblicani al momento controllano il Senato, quindi è stato naturalmente, nessuno ha potuto imporre le sue condizioni. Si è trovato un compromesso, ma secondo molti quotidiani adesso Donald Trump sarebbe pronto, lo ha detto lui stesso via Twitter, poi bisogna naturalmente aspettare che ci siano anche degli atti formali, sarebbe pronto a mettere il veto, perché in inglese, in America si dice proprio così, veto a bill, e usando naturalmente il termine latino. In realtà il processo prevede poi, questo lo spiega molto bene il Washington Post, che la bill, cioè la legge, in questo caso questo stimulus bill da 900 miliardi di dollari, torni alla casa, alla House of Representatives, e lì la Camera bassa può override questo veto. Quindi e la Camera, abbiamo detto, è presieduta dai è controllata dai democratici. Il problema è che comunque questo processo, se avviato, richiederebbe alcuni giorni, e quindi, a differenza di quanto ipotizzato, gli aiuti, che poi arrivano sotto forma di assegni nella maggior parte dei casi direttamente all'indirizzo dei destinatari, questo pacchetto di aiuti rallenterebbe, e naturalmente l'emergenza economica negli Stati Uniti, dove non ci sono misure come le nostre, tipo il blocco dei licenziamenti e tutti questi altri ammortizzatori sociali, la situazione è veramente grave. A proposito di vaccini e grandi aziende, ho trovato molto interessante un approfondimento di Financial Times che si intitola US Employers Warned Not to Insist on Staff Vaccinations, perché nessuno ipotizza, bisogna dirlo molto chiaramente, che ci sia un'obbligatorietà per il vaccino negli Stati Uniti, però diciamo federale, però molte aziende, tra l'altro, avevano già cominciato, ma questo succede dappertutto anche in Italia naturalmente, a offrire tamponi a chi doveva tornare sul luogo di lavoro, e magari a chi era stato positivo e bisognava verificare che non lo fosse più, ma adesso molte aziende hanno cominciato a far capire che potrebbero chiedere appunto una vaccinazione ai loro dipendenti, in particolare naturalmente se ci fosse un famoso ribilanciamento tra lavoro da casa e lavoro in sede. E però questo preoccupa molto, perché sarebbe una, se ci pensate, una forma di, appunto, come di imposizione su una questione molto delicata, che è quella delle scelte sulla salute e poi sulla salute pubblica, e quindi questo tema verrà sicuramente risollevato mano a mano che proseguirà la vaccinazione. Sappiamo si andrà oltre le categorie scelte come prioritarie, cioè soprattutto il personale sanitario e le persone di diciamo, a seconda dei paesi, anche qui, però quelle considerate tra virgolette anziani, quindi diciamo over 70, perché mi fa sempre effetto considerare anziano una persona di 65 anni. Comunque questo è il grande tema. L'altro grande tema, visto che ormai le caselle della prossima amministrazione, quella del presidente eletto Joe Biden, che lo ricordiamo sempre, dovrebbe insediarsi ufficialmente con una solenne cerimonia il 20 di gennaio a Washington. Fino a quel momento il presidente in carica è Donald Trump, però intanto Joe Biden naturalmente ha iniziato a lavorare alla sua squadra. Sono, ripeto, quasi tutte le caselle sono al loro posto, come abbiamo raccontato in Effetto Mondo con Alessio Maurizi all'interno di Effetto Giorno nelle scorse settimane. Sono state anche fatte delle scelte di grande inclusività e diversità. Il primo nero, anche se sapete che negli Stati Uniti bisogna dire afroamericano, comunque per capirci, il primo nero alla guida dell'Environment Protection Agency, una nativa americana alla guida del Dipartimento per le risorse naturali, quindi scelte veramente di rottura, diciamo, rispetto al passato. E questo tema però dell'inclusività, in particolare visto anche tutto quello che è successo in questo anno con il movimento Black Lives Matter, si rimbalza anche nel mondo dell'imprenditoria. E anche in questo caso Financial Times ha fatto un interessante approfondimento sul fatto che tra qualche mese Melody Hobson, che è una afroamericana, diventerà la seconda donna afroamericana a presiedere un'azienda dello Standard & Poor's 500. Diventerà presidente di Starbucks, il gigante della ristorazione che conosciamo anche in Italia, perché sta crescendo molto anche in Italia, e questo naturalmente è un passo importante. Però, come spesso abbiamo notato anche in Italia, poi oltre ai ruoli veramente apicali occorre che entrino, in questo caso afroamericani, ma naturalmente in Italia c'è anche il grande tema delle quote rosa, a tutti i livelli di un'azienda. E quindi c'è questo approfondimento che spiega come i cacciatori di testa, gli headhunters, adesso si stiano proprio specializzando per colmare queste diversity gaps, quindi suggerendo, quando un'azienda si rivolge a un cacciatore di testa per trovare per cercare una persona per un ruolo vacante, appunto suggerire sempre una soluzione di diversità. Passiamo a temi magari un po' meno legati all'emergenza Covid. The Eye, che è un quotidiano britannico, una volta era completamente free, adesso costa 65 pence, quindi circa 80 centesimi. È molto rigoroso, però non è, diciamo, non usa la formula tabloid, che è quella dei titoli urlati e delle notizie che fanno effetto soprattutto leggendo il titolo e il sommario, poi magari non sono neanche tanto verificate con tanta attenzione. Questo è un tema che mi è molto caro, perché a volte nelle rassegne stampa internazionali che sento fare in Italia vengono inclusi dei giornali che come se fossero delle voci autorevoli, e invece sono appunto della formula tabloid, quella che fino a qualche anno fa, quando questa è diventata una pratica troppo urticante per il pubblico femminile per continuarla, erano gli stessi che mettevano quasi ogni giorno delle donnine nude o seminude in prima pagina, per farvi capire. The Eye è una cosa diversa, è molto serio, ha naturalmente seguito tutta la vicenda dei blocchi alle frontiere con queste foto impressionanti dei camion in fila. Ma ha anche una notizia curiosa: anche in molti paesi c'è l'obbligo di mettere un chip sotto pelle agli animali domestici. Nel Regno Unito finora era obbligatorio solo per i cani, ma adesso sarà obbligatorio anche per i gatti, che in effetti, insomma, siccome forse si allontanano da casa anche con più facilità da soli, naturalmente, dei cani, è una scelta, insomma, interessante, anche se poi ovviamente questo comporta un costo in più per i proprietari, in questo caso dei gatti. Ci sono due articoli sulla stampa francofona che riguardano uno degli tanti effetti collaterali del Covid, cioè il malessere che è emerso nei corpi di polizia. In Francia, sapete, ci sono stati anche episodi di violenza, ma credo che siano sempre episodi singoli, e ciò non toglie che anche per via dell'aumento della criminalità che c'è stato durante soprattutto il primo lockdown, perché le città erano diventate deserte, è emerso un grande disagio all'interno della polizia, dei corpi di polizia francese. Per esempio, Libération ne parla, cercando di capire quali sono i possibili anticorpi che hanno i poliziotti, ovviamente tutta quella quantità enorme di poliziotti onesti, che devono però comunque non mentirsi, diciamo così, non ingannarsi sul fatto che comunque all'interno della polizia francese, e non solo naturalmente, pensate appunto a quello che è successo negli Stati Uniti, ci sono dei tratti di evidente razzismo. Questo malessere è accentuato apparentemente anche in Belgio, lo ha spiegato Le Soir in prima pagina, come il Covid abbia accentuato il malessere della polizia. Ultimissima segnalazione che volevo farvi dal Guardian: una bellissima lunga intervista a Nicole Kidman, che parla soprattutto del tema degli abusi domestici. Anche questi purtroppo sono aumentati sia sulle donne sia sui bambini durante i lockdown. Nicole Kidman, che è stata protagonista qualche anno fa della serie Big Little Lies, che poi ha avuto anche una seconda serie, quindi 2017-2019, lei interpretava proprio una donna maltrattata, e credo che chiunque abbia visto quella serie abbia intuito che c'era anche qualcosa di molto personale, sentito, ma forse proprio addirittura vissuto in anni passati sulla propria pelle, su questa questione delle violenze psicologiche o fisiche all'interno di un ambiente domestico. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon Santo Stefano da Giulia Crivelli. Ci sentiamo domani, se volete, per la rassegna dei quotidiani italiani, e poi da settimana prossima dalle 7 alle 9 con 24 Mattino.